Allora, io volevo dire questo. Sono 3 anni che facciamo questo sciopero delle donne, che scendiamo in piazza con non una di meno. Poi l'8 marzo, come sapete, esiste da tanti anni, dopo la guerra è stato istituito come giornata di lotta, ma poi si è perso completamente per una giornata un po' blanda, con fiori, cioccolatini, eccetera. E noi veramente non ci sentivamo più a nostro agio. Finalmente, insieme a non una di meno, a cui noi facciamo parte, tutti i centri antiviolenza in tutta Italia fanno parte di non una di meno e siamo con loro, abbiamo cambiato veramente idea. L'8 marzo è una giornata di lotta e non di festa, perché le donne devono stare molto attenti. I diritti che abbiamo conquistato non sono scontati. Pensiamo solo all'aborto. Esiste la legge da tanti anni, però non è garantito. Lo stesso il problema della violenza. Abbiamo tante leggi in Italia, anche leggi fatte bene, ma non vengono applicate. Solo a pensare alla sentenza di 2 giorni fa, che eravamo davanti al tribunale, non vengono applicate delle leggi, non vengono applicate. Quindi noi combattiamo non solo sulla violenza contro le donne, chiaramente noi come Casa delle Donne lavoriamo sulla violenza, da 30 anni siamo aperte e le donne devono uscire dalla violenza, però su tutti i diritti delle donne che purtroppo in Italia non sono rispettati. Insieme a noi ci sono 60 paesi che fanno lo sciopero delle donne, è sciopero femminista, e noi siamo molto orgogliose e vogliamo fare contaminazione in tutti i paesi del mondo.